Buongiorno! E allora, le uniche difficoltà ad entrare nel giovane nuovo mondo possono essere di carattere personale. Sincerità, sensibilità, fantasia sono finalmente tollerate. Potenziamento del bagaglio emotivo, upgradazione della vostra libertà individuale, estensione delle facoltà sensitive, tutto può dipendere ora dalla vostra volontà. Dipendi, cadere al